La storia di Robertson Hay. Camminate per piacere, disse Mary Poppins, spingendo la carrozzina con dentro i gemelli da una parte e Annabella dall'altra, mentre si dirigeva verso la sua panchina preferita al parco. Era una panchina verde, vicinissima al lago, e l'aveva scelta perché poteva, chinandosi ogni tanto di lato, vedere la propria immagine riflessa nell'acqua. La vista del suo volto splendente fra due ninfee le dava sempre un gradevole senso di compiaciuta soddisfazione. Michael la seguiva di malavoglia. Andiamo sempre avanti, mormorò a Jane sottovoce, facendo attenzione che Mary Poppins non udisse. Ma mi sembra che non si arrivi mai in nessun posto. Mary Poppins si voltò e gli lanciò uno sguardo di fuoco. Mettiti il cappello diritto. Michael si tirò il cappello sugli occhi. Marinaio c'era scritto sulla fascia ed egli riteneva che gli stesse molto bene, ma Mary Poppins li osservava entrambi con disprezzo. Ella disse: Sembrate un quadro voi due, francamente. Vi trascinate avanti come una coppia di tartarughe e le vostre scarpe non sono affatto lucide. Già, oggi è il pomeriggio di libertà di Robertson Hay, disse Jane. Suppongo che non abbia avuto tempo di lucidarle prima di uscire. Pigro, ozioso, buono a nulla, ecco cos'è. Sempre stato così e sempre sarà, brontolò Mary Poppins, spingendo con furia la carrozzina verso la panchina verde. Tirò fuori i gemelli e avvolse strettamente lo scialle intorno ad Annabella. Lanciò uno sguardo alla sua immagine riflessa nel lago e sorrise con aria di superiorità, raddrizzandosi sul collo la nuova cocca del nastro. Quindi prese dalla carrozzina la borsa del lavoro. Come sai che è sempre stato pigro? Le domandò Jane. Conoscevi Robertson Hay prima di venire qui? Non fare domande e non ti verranno dette bugie, rispose Mary Poppins pomposamente e cominciò a lavorare a un golfino di lana destinato a Giovannino. Non ci dice mai niente, brontolò Michael. Lo so, sospirò Jane. Ma ben presto non pensarono più a Robertson Hay e cominciarono a giocare al signore e alla signora Banks e ai loro due bambini. Poi diventarono pellirosse con Barbara e Giovannino che facevano da squaw e infine si tramutarono in equilibristi. Lo schienale della panchina fungeva da corda. Attenzione al mio cappello, disse Mary Poppins. Era un cappello marrone con una penna di piccione infilata nel nastro. Michael avanzava prudentemente, un piede dopo l'altro, lungo lo schienale della panchina. Quando giunse alla fine, si tolse il cappello e lo agitò. Jane! Gridò. Sono il re del castello e tu sei. Sta zitto, Michael! Ella lo interruppe e puntò il ditino verso il lago. Guarda là! Lungo il sentiero al di là del lago avanzava un'alta figura, curiosamente vestita. Portava delle calze a righe rosse e gialle, una tunica rossa e gialla con i bordi ricamati e in testa un cappello pure giallo e rosso a pan di zucchero. Jane e Michael lo osservarono con interesse. Si dirigeva verso di loro, avanzando con passo pigro e baldanzoso, con le mani in tasca e il cappello calato sugli occhi. Fischiettava forte e al suo avvicinarsi. E si notarono che gli orli della sua tunica e la falda del suo cappello erano bordati di campanelli che tintinnavano melodiosamente quando si muoveva. Era la persona più strana che avessero mai veduto, eppure c'era qualcosa in lui che sembrava loro familiare. Mi pare di averlo già visto, osservò Jane, aggrottando le sopracciglia e cercando di ricordare. Anch'io, ma non riesco a ricordare dove. Michael si dondolò sullo schienale della panchina e la fissò. Fischiettando e tintinnando, il curioso tipo camminò pesantemente verso Mary Poppins e si appoggiò alla carrozzina. Buondì, Mary! Esclamò e si toccò pigramente con un dito la falda del cappello. Come state? Mary Poppins lo squadrò alzando gli occhi dal lavoro. Non certo meglio perché me lo domandate voi! Ella rispose con uno sbuffo rimoroso. Jane e Michael non poterono scorgere la faccia dell'uomo perché la falda del cappello era tirata sugli occhi, ma dal modo con cui i campanellini tintinnarono compresero che rideva. Occupata come sempre, vedo, egli osservò con uno sguardo all'uncinetto. Ma del resto lo eravate sempre, persino a corte. Se non stavate pulendo il trono, facevate il letto del re. E se non stavate facendo il letto del re, lucidavate i gioielli della corona. Non ho mai visto una persona tanto attiva. Già, un po' più di quel che si potrebbe dire di voi, replicò Mary Poppins in tono burbero. Ah, rise lo strano tipo. Qui vi sbagliate, io sono sempre occupato. Non fare nulla occupa un gran tempo, tutto il tempo, anzi. Mary Poppins strinse le labbra senza rispondere. Lo strano tipo ridacchiò divertito. Bene, devo andare, egli disse. Arrivederci a qualche altro giorno. Fece scorrere un dito lungo i campanelli del cappello e se ne andò dondolandosi pigramente e fischiettando come era venuto. Jane e Michael lo guardarono finché non lo ebbero perduto di vista. Il sudicio briccone! Proruppe dietro a loro Mary Poppins ed essi, voltandosi, si accorsero che anche lei continuava a fissare lo strano tipo. Chi era quell'uomo, Mary Poppins? Domandò Michael saltando su e giù dalla panchina per l'eccitazione. Ve l'ho appena detto, ella rispose brusca. Tu dicevi di essere il re del castello e non lo sei neanche un po', ma quello è il sudicio briccone. Intendi dire quello della canzoncina? Chiese Jane trattenendo il respiro. Ma la canzoncina non è una storia vera, no? Protestò Michael. E se è vera, chi è il re del castello? Zitto! Lo ammonì Jane posandogli una mano sul braccio. Mary Poppins aveva riposto il lavoro all'uncinetto e stava fissando il lago con uno sguardo assente. Jane e Michael sedevano quieti, nella speranza che se non facevano chiasso, avrebbe loro raccontato tutta la storia. I gemelli si strinsero uno accanto all'altro da un lato della carrozzina, guardando seri Mary Poppins. Annabella, dall'altro lato, dormiva profondamente. Il re del castello, cominciò Mary Poppins, stringendo fra le mani il suo gomitolo di lana e fissando i ragazzi come se non li vedesse. Il re del castello abitava in un paese così lontano che molta gente non l'ha mai sentito nominare. Pensate alla distanza più grande che potete. Ebbene, quel paese è molto più lontano. Pensate all'altezza maggiore possibile. Ebbene, quel paese era ancora più in alto. Pensate all'abisso più profondo e quel paese era ancora più in basso. E se dovessi dirvi quanto era ricco quel re, voi dovreste rimanere lì seduti ad ascoltare fino all'anno venturo e non avrei fatto in tempo ad elencarvi che la metà delle sue ricchezze. Era enormemente, assurdamente, inverosimilmente ricco. Infatti, c'era una sola cosa in tutto il mondo che egli non possedesse, e quella cosa era la saggezza. La sua terra era piena di miniere d'oro, il suo popolo era educato e prosperoso, aveva una buona moglie, quattro floridi bambini, o forse cinque. Non riusciva mai a ricordare il numero esatto perché aveva una memoria molto scarsa. Il suo castello era fatto d'argento e di granito e le sue casseforti erano ricolme d'oro. I diamanti incastonati nella sua corona erano grossi come uova d'anatra. Egli possedeva molte città meravigliose e molti velieri sul mare e come braccio destro aveva un gran cancelliere il quale sapeva esattamente quello che si dovesse fare e quello che non si doveva fare e consigliava il re di conseguenza. Ma il re non possedeva la saggezza. Era completamente e assolutamente stupido e per di più lo sapeva. Invero non poteva ignorarlo, già che ognuno, dalla regina e dal gran cancelliere a tutti gli altri, gli ricordavano costantemente questa realtà. Persino i bigliettai sugli autobus e gli autisti e i commessi di negozio non potevano astenersi dal lasciar capire al re che sapevano che egli non possedeva la saggezza. Non provavano per lui antipatia, ma semplicemente disprezzo. Il re non aveva colpa di essere così stupido. Aveva provato e riprovato ad acquistare la saggezza fin da bambino, ma nel bel mezzo delle lezioni, anche quando era divenuto grande, scoppiava improvvisamente in lacrime e asciugandosi gli occhi nello strascico d'ermellino gridava: «Tanto lo so che non farò mai progressi in questo campo, mai!» Allora, perché tormentarmi? Ma i suoi maestri perseveravano ugualmente nei loro sforzi. Giunsero professori da tutte le parti del mondo per cercare di insegnare qualcosa al re del castello, non fosse altro che 2 più 2 fa 4 o che cane si scrive CANE. Ma nessuno di loro ottenne su di lui il benché minimo risultato. Allora la regina ebbe un'idea. Offriamo, ella disse al gran cancelliere, una ricompensa al professore che riuscirà a insegnare al re un po' di saggezza, e se dopo un mese non ci sarà riuscito, avrà la testa tagliata e infilzata ai cancelli del castello, come ammonimento agli altri professori di quello che accadrà se anche loro falliranno. E siccome la maggior parte dei professori era piuttosto povera e la ricompensa consisteva in una grossa somma di denaro, essi tentarono, fallirono e perdettero la speranza assieme alla testa. I cancelli del castello furono molto presto molto affollati. Le cose andavano di male in peggio. Alla fine la regina disse al re: Adalberto, era questo il nome del re. Credo proprio che faresti meglio ad affidare il governo del regno a me e al gran cancelliere, poiché entrambi siamo addentro a ogni cosa. Ma questo non sarebbe giusto, protestò il re. Dopotutto, il regno è mio. Finì, tuttavia, col cedere, perché sapeva che la regina era più abile e saggia di lui, ma soffrì talmente di essere messo in sottordine nel proprio castello e di dover adoperare uno scettro ricurvo di seconda mano, perché continuava a morsicare il pomello di quello migliore, che continuò a ricevere professori, cercando di apprendere la saggezza e scoppiando in pianto quando si accorgeva di non riuscirvi. Piangeva la loro sorte, oltre che la sua, perché lo rendeva infelice vedere appese al cancello le loro teste. Ogni nuovo professore arrivava pieno di speranze e di sicurezza e cominciava con una qualsiasi domanda che non fosse stata rivolta dall'ultimo. Quanto fa 6 più 7, maestà? Domandò un giovane professore di bell'aspetto che giungeva da molto lontano. E il re, concentrandosi con gran sforzo, rifletté un istante e quindi si sporse in avanti con calore e rispose: Fa 12, perbacco! Che vergogna! Esclamò il gran cancelliere che stava in piedi dietro la sedia del re. Il professore gemette: 6 più 7 fa 13, maestà! Oh, quanto mi dispiace! Provate un'altra domanda, per piacere, professore. Sono sicuro che questa volta risponderò bene. Su via, allora, quanto fa? 5 più 8. Lasciatemi pensare. Non me lo dite. Ce l'ho proprio sulla punta della lingua. Sì. 5 più 8 fa 11. Che vergogna! Ripeté il gran cancelliere. 13! Gridò il giovane professore senza più speranza. Ma, caro mio, poco fa avete detto che 6 e 7 fanno 13. Dunque, come possono fare 13, 5 e 8? Non ci sono 2 e 13, non vi pare? Ma il professore si contentò di scuotere la testa, si slacciò il colletto e se ne andò svelto con il boia. Ma dunque esiste più di un 13? Domandò il re nervosamente. Il gran cancelliere voltò il capo dall'altra parte disgustato. Oh, quanto mi dispiace, disse il re a se stesso. La faccia di quel professore mi era simpatica. È un peccato che debba andare a finire sul cancello. Dopodiché lavorò intensamente alla sua matematica, sperando per la venuta del prossimo professore di essere in grado di dare la risposta giusta. Sedeva in cima alle scale del castello, vicino al ponte levatoio, con la tavola pitagorica sulle ginocchia, cercando di imparare la memoria. E finché guardava il libro tutto andava bene, ma quando chiudeva gli occhi e cercava di ricordare, tutto andava a rovescio. 7 per 1, 7, 7 per 2, 33, 7 per 3, 45, cominciò un giorno. E quando si avvide che sbagliava, gettò via il libro con disgusto e nascose la testa nel mantello. Non va, non va, non diventerò mai saggio, gridò disperatamente. E allora, poiché non poteva continuare a piangere in eterno, si asciugò gli occhi e si lasciò cadere nella sua sedia d'oro. Così facendo, trasalì di sorpresa perché uno straniero aveva dato una spinta alla sentinella di guardia al cancello e stava avanzando per il sentiero che conduceva al castello. Buondì, disse il re, chi sei? Infatti non era fisionomista. A proposito, replicò lo straniero, chi siete voi? Sono il re del castello, rispose il re, raccogliendo lo scettro ricurvo e cercando di assumere un'aria importante. E io sono il sudicio Briccone, fu la risposta. Il re spalancò gli occhi per la meraviglia. Lo sei davvero? Interessante. Sono lieto di fare la tua conoscenza. Sai quanto fa 7 per 7? No, perché dovrei saperlo? A questa uscita il re diede un grido di gioia e precipitandosi giù per le scale abbracciò lo straniero. Finalmente, finalmente, gli gridò, ho trovato un amico. Vivrai con me, quel che è mio sarà tuo. Trascorreremo insieme la vita. Ma Adalberto, protestò la regina, questa è una persona comune, non puoi tenerla qui. Maestà, aggiunse il gran cancelliere severamente, non starebbe bene. Ma questa volta il re lo sfidò. Invece starà benissimo, rispose con aria regale. Chi è il re qui? Voi o io? Oh, certo, naturalmente, per così dire, siete voi, come se lo foste, maestà, ma... Benissimo, mettete a quest'uomo il berretto e i campanelli e sarà il mio buffone. Buffone? Gridò la regina, torcendosi le mani. Abbiamo forse bisogno di un buffone? Ma il re non rispose. Pose il braccio intorno al collo dello straniero e tutti e due se ne andarono danzando verso la porta del castello. Prima di te, disse il re garbatamente. No, prima voi, rispose lo straniero. Tutti e due insieme allora, ribatté con magnanimità ed entrarono sotto braccio. E da quel giorno il re non tentò più di imparare le sue lezioni. Fece una pila di tutti i libri e li bruciò nel cortile, mentre lui e il suo amico danzavano in tondo, cantando «Io sono il re del castello e tu sei sudicio Bricon». «E questa, l'unica canzoncina che sapete cantare?» domandò un giorno il buffone. «Eh sì, temo di sì», rispose il re malinconicamente. «Ne conosci qualche altra?» «Oh, perbacco sì», disse il buffone. E cantò dolcemente. Ape dolce color d'oro, pensa dunque un po' a coloro che ti guardano volare, il tuo miel facci assaggiare. E lieve, lieve sopra la neve, ballonzola, scodinzola, l'aragosta al gratin. La fiamma traballa, la mucca è nella stalla, la mucca è il vitello, la pecora è l'agnello, la chioccia è il pulcino, ognuno al suo bambino, ognuno alla sua mamma e tutti fan la nanna. Bello! Gridò il re battendo le mani. Ora ascolta, ne ho pensata una io, comincia così. Ogni cane zumpappà, odia le rane zumpappà. Disse il buffone. Non male. Aspetta un momento, soggiunse il re. Ne ho pensata un'altra e mi sembra migliore. Sta attento. E cantò. Prendimi un fiore, prendi una stella e facci insieme una besciamella. E tralala, sarà davvero una gran bontà. Bravo! Gridò il buffone. Cantiamola insieme. E tutti e due entrarono nel castello cantando le due canzoncine del re una dopo l'altra, con un motivo molto originale. Quando furono stanchi di cantare, si lasciarono cadere insieme nella sala del trono e si addormentarono rannicchiati l'uno addosso all'altro. Ah, va di male in peggio, disse la regina al gran cancelliere. Che dobbiamo fare? Proprio poco fa ho udito, rispose il gran cancelliere, che l'uomo più saggio del regno, il capo di tutti i professori, arriverà domani. Forse potrà aiutarci. E il giorno seguente il professore capo arrivò, camminando con passo elegante, per il sentiero che conduceva al castello. Aveva con sé una piccola borsa nera. Tutta la corte era riunita alla sommità della scala per augurargli il benvenuto. «Ha messo forse la saggezza in quella borsa? Che ne dici?» mormorò il re. Ma il buffone, che stava giocando ai dadi dietro il trono, si contentò di sorridere e proseguì nel suo gioco. «Adesso...» Se Vostra Maestà lo gradisce, disse il professore capo con un tono di voce da uomo d'affari, occupiamoci per prima cosa dell'aritmetica. Vostra Maestà può rispondere a questa domanda? Se due uomini e un ragazzo spingessero una carriola in un campo di garofani a metà febbraio, quante gambe avrebbero in tutto? Il re lo fissò per un momento, strofinandosi lo scettro contro una guancia. Il buffone lanciò in aria un dado. E lo riprese abilmente sul dorso della mano. Ha importanza? Rispose il re sorridendo allegramente. Il professore capo trasalì e lo guardò con stupore. In realtà, rispose Calmo, non molta, ma rivolgerò a Vostra Maestà un'altra domanda. Quanto è profondo il mare? Abbastanza profondo perché le navi vi possano navigare. Di nuovo il professore spalancò gli occhi e la sua lunga barba tremò leggermente. Sorrideva. Quale differenza c'è, Maestà, tra una stella e una pietra, tra un uccello e un uomo? Non c'è nessuna differenza, professore, una pietra e una stella che non brilla, un uomo e un uccello senza ali. Il professore capo si avvicinò e guardò con meraviglia il re. Qual è la cosa migliore del mondo? Domandò. Non far nulla, rispose il re agitando lo scettro. Oh, povera me, gemette la regina, questo è terribile. Che vergogna, esclamò il gran cancelliere. Ma il professore capo corse su per le scale e si fermò davanti al trono del re. Chi vi ha insegnato queste cose, maestà? Domandò. Il re con lo scettro additò il buffone che stava lanciando i suoi dadi. Quello lì, disse. Il professore capo aggrottò le folte sopracciglia. Il buffone alzò lo sguardo su di lui e sorrise. Lanciò in aria un dado e il professore, chinandosi in avanti, lo ricevette sul dorso della mano. Ah, gridò, ti conosco. Anche con la mantella e i campanelli riconosco il sudicio briccone. Rise il buffone. E che altro vi ha insegnato, maestà? Domandò il professore capo, volgendosi nuovamente al re. A cantare, rispose il re, e si alzò in piedi e cantò. Su un verde ramoscello un dì stava un agnello, e se io fossi l'agnello non sarei certo il re. Verissimo! Assentì il professore capo, e che altro? Il re continuò a cantare con una voce allegra e vibrante. Il mondo gira in tondo, ma senza oscillare, e in questo modo il mare non si può rovesciare. È così, osservò il professore capo. E c'è altro? Oh, sì, rispose il re felice del suo successo. Eccone un'altra. Potrei imparare fino a scoppiare, ma poi non avrei tempo di pensare. Oh, o forse, professore, preferite questa. Giro, giro tondo, non andremo intorno al mondo, perché tanto viaggiare, solo per a casa tornare. Il professore capo batté le mani. Ce n'è un'altra, soggiunse il re, se vi va di ascoltarla. Cantatela, sire, per favore. E il re chinò la testa verso il buffone, sorridendo maliziosamente, cantò: Tutti quanti professori e i più celebri dottori si dovrebbero tramutare in bambini e poi giocare. Alla fine della canzone, il professore capo scoppiò in una rumorosa risata e si gettò ai piedi del re. Oh, sire, disse, evviva, evviva, non avete bisogno di me. E senza altre parole, corse giù per le scale, si tolse il mantello, l'abito e il panciotto e poi si ruzzolò sull'erba e ordinò un piatto di fragole con panna e un grande bicchiere di birra. Che succede? Che succede? Disse il gran cancelliere scandalizzato, perché ora tutti i cortigiani scendevano a precipizio le scale, togliendosi gli abiti e si ruzzolavano sull'erba bagnata di pioggia. Fragole birra! Fragole birra! Gridavano assetati. Date a lui il premio, disse il professore capo, bevendo la birra con la cannuccia di paglia e additando il buffone con un cenno del capo. Puah! Protestò il buffone. Non lo voglio, che me ne farei? Si alzò pigramente, si mise in tasca i dadi e si avviò per il sentiero. Oi! Dove vai? Gridò il re ansiosamente. Oh, in nessun posto e dappertutto. Rispose il buffone, proseguendo con noncuranza per il sentiero. Aspettami, aspettami! Lo pregò il re, inciampando nello strascico mentre scendeva precipitosamente le scale. Adalberto, che fai? Dimentichi te stesso! Gridò infuriata la regina. No, no, cara, replicò il re. Al contrario, mi ricordo di me stesso per la prima volta. Si precipitò per il sentiero, raggiunse il buffone e lo abbracciò. Adalberto! Lo rimproverò ancora la regina. Il re non le badò. La pioggia era cessata, ma c'era ancora nell'aria un'acquosa luminosità. Ed ecco che un arcobaleno sbucò fuori dal sole e si curvò in un grande arco fin sul sentiero del castello. Pensavo che potremmo prendere questa strada, disse il buffone additandoglielo. Cosa? L'arcobaleno? È abbastanza solido? Potrà sostenerci? Provate. Il re guardò l'arcobaleno e le sue lucenti striature di violetto, indaco, blu e verde e giallo e arancione e rosso. Poi guardò il buffone. Benissimo, sono d'accordo, rispose. Andiamo. Fece un passo sul sentiero variopinto. Regge! Gridò tutto contento e si incamminò rapidamente su per l'arcobaleno tenendosi lo strascico con una mano. Sono il re del castello! Cantava trionfalmente. E io sono il sudicio Briccone! Rispondeva il buffone correndogli appresso. Ma è impossibile! Esclamò il gran cancelliere boccheggiando. Il professore Capo rise e inghiottì un'altra fragola. Come può essere impossibile una cosa che accade per davvero? Domandò. Ma è impossibile, deve esserlo. È contro le leggi. La faccia del gran cancelliere era rossa di collera. La regina lanciò un grido. Oh, Adalberto, torna indietro! Ella implorò. Non importa se sei stupido, basta che torni indietro. Il re guardò in giù, al di sopra della spalla, e scosse la testa. Il buffone rise forte ed entrambi continuarono ad arrampicarsi sull'arcobaleno. Qualcosa di rilucente cadde ai piedi della regina. Era lo scettro ricurvo. Un momento dopo lo seguiva la corona. Ella aprì le braccia in un gesto di implorazione, ma la sola risposta del re fu una canzone cantata con la sua voce vibrante. Dimmi addio, amor, e non gridare, amor. Tu sei saggio, anch'io lo son, amore, amore, amor. Il buffone, con uno sprezzante gesto della mano, lanciò un dado, quindi dette una spintarella al re e lo incitò a salire. Il re prese la rincorsa sollevando lo strascico e alle calcagna lo seguiva il buffone. Andarono avanti, avanti, lungo il luminoso sentiero variopinto, finché una nuvola passò tra loro e la terra e la regina che guardava non lo vide più. Tu sei saggio, anch'io lo son. Amor, amor, amor. L'eco della canzone del re arrivava, tremula. La regina ne udì l'ultima esile eco e il re scomparve. Che vergogna! Esclamò il gran ciambellano. Queste cose non vanno fatte, assolutamente. Ma la regina, accasciata sul trono deserto, piangeva. Ah! Ella si lamentava con voce debole, nascondendosi il volto tra le mani. Il mio re se n'è andato e io sono desolata e nessuna cosa sarà ormai più la stessa. Frattanto il re e il buffone avevano raggiunto la cima dell'arcobaleno. Che salita! Esclamò il re mettendosi a sedere e avvolgendosi intorno al mantello. Credo che mi riposerò un po' qui, forse per molto tempo. Tu vai avanti. Non vi sentirete solo? Domandò il buffone. Oh no, mio caro, perché? Il luogo è molto tranquillo e piacevole e posso sempre riflettere. O meglio ancora, mettermi a dormire. E così dicendo si sdraiò sull'arcobaleno ponendosi il mantello sotto la testa. Il buffone si chinò e gli diede un bacio. Addio allora, re, disse dolcemente, poiché non avete più bisogno di me. Lasciò il re che dormiva placidamente e fischiando discese dall'altra parte dell'arcobaleno e di lì si recò a vagare ancora per il mondo come aveva fatto prima di incontrare il re, cantando e fischiando e non pensando a nulla se non al singolo istante. Qualche volta si recò al servizio di altri re o gente altolocata e qualche volta andò presso uomini comuni in piccole strade o modesti viali. Qualche volta indossava sontuose livree e qualche altra abiti dimessi, quali potrebbe portare la gente più povera. Ma ovunque andò, recò la buona sorte e grande fortuna alla casa che lo alloggiava. Mary Poppins cessò di parlare. Per un momento le sue mani giacquero in grembo e i suoi occhi fissarono il lago senza vederlo. Poi sospirò, scosse un po' con le spalle e si alzò. «Su via!» disse energicamente. «In marcia, di buon passo! E andiamo a casa!» Voltandosi, vide gli occhi di Jane fissi insistentemente su di lei. La prossima volta mi riconoscerai, spero. osservò acidamente. E tu, Michael, scendi giù da quella panchina una buona volta. Vuoi romperti il naso e darmi il fastidio di chiamare un vigile? Pose i gemelli nella carrozzina, che mise in moto con una rapida mossa impaziente. Jane e Michael le corsero dietro. Dove è andato il re del castello dopo che l'arcobaleno è scomparso? Domandò Michael pensieroso. È andato con l'arcobaleno, suppongo. Continuerà a seguirlo, disse Jane. Ma quel che mi domando è cosa successe al sudicio briccone? Mary Poppins aveva diretto la carrozzina alla passeggiata dei pini e mentre i bambini voltavano l'angolo, Michael prese la mano di Jane. Eccolo lì! Gridò tutto elettrizzato, puntando il dito in fondo alla passeggiata dei pini verso il cancello del parco. Un'alta e magra figura, curiosamente vestita di rosso e giallo, si dirigeva con aria trasognata verso l'uscita. Si fermò per un momento, guardando su e giù per il viale dei ciliegi e fischiettando. Quindi, a testa bassa, attraversò la strada e andò sul marciapiede opposto, scavalcò pigramente la staccionata di un giardino. È proprio il nostro, disse Jane, riconoscendolo da un mattone che mancava. È entrato nel nostro giardino. Corri, Michael, cerchiamo di raggiungerlo. Corsero al galoppo dietro Mary Poppins e la carrozzina. Su via, che succede? Non giocate così brutalmente, per favore, disse Mary Poppins, afferrando energicamente il braccio di Michael mentre le passava accanto. Ma vogliamo, egli cominciò a dire, dibattendosi. Cosa ti ho detto? Domandò ella, lanciandogli uno sguardo così fulminante che Michael non osò disobbedire. Cammina dietro a me, per piacere, come fanno i bambini per bene. E tu, Jane, puoi aiutarmi a spingere la carrozzina? Malvolentieri Jane le si mise accanto. Di regola Mary Poppins non permetteva ad alcuno di spingere la carrozzina, ma oggi sembrava a Jane che di proposito volesse loro impedire di correre avanti. Ella, che di solito camminava tanto in fretta che era difficile tenerle dietro, avanzava a passo di lumaca, sostando ogni momento a guardarsi intorno e fermandosi almeno un minuto davanti a un cestino dei rifiuti. Finalmente, dopo un tempo che sembrò loro un secolo, raggiunsero il viale dei ciliegi. Mary Poppins se li trattenne accanto finché furono giunti all'entrata del numero 17. Qui si scostarono da lei, si slanciarono nel giardino, cercarono dietro l'albero di lilà, non c'era. Esplorarono tra i cespugli di rododendri e nella serra, nel ripostiglio, vicino al pozzo, cercarono persino nel tubo della pompa per innaffiare. Il sudicio briccone era introvabile. C'era soltanto un'altra persona nel giardino ed era Robertson Hay. Dormiva profondamente in mezzo al prato con la guancia appoggiata al tagliaerba. Ci è scappato, sospirò Michael. Deve aver preso una scorciatoia ed essere uscito da dietro. Ormai non lo rivedremo mai più. Michael ritornò verso il tagliaerba. Jane era lì a guardare affettuosamente Robertson Hay. Il suo vecchio cappello di feltro era abbassato fin sugli occhi. Chissà se si è divertito nel suo pomeriggio libero, disse Michael parlando pianissimo per non disturbarlo. Ma per quanto piano parlasse, Robertson Hay dette segno di aver capito perché improvvisamente si mosse nel sonno e si appoggiò più comodamente al tagliaerba. E mentre si muoveva si udì un lieve suono tintinnante, come se dei campanelli suonassero lievemente. Con un sussulto Jane alzò la testa e scambiò un'occhiata con Michael. Hai udito? Mormorò. Egli assentì, spalancando gli occhi. Robertson Hay si mosse nuovamente e brontolò nel sonno. Si chinarono ad ascoltare. Su un verde ramoscello, egli mormorava distintamente, un dì stava un agnello. Non sarei certo re. Al di sopra del suo corpo addormentato, Jane e Michael si guardarono l'un l'altra con occhi pieni di meraviglia. Bene che sia lui, devo dire. Mary Poppins era giunta dietro a loro e anch'essa stava osservando Robertson Hay. Il pigro, l'ozioso, il buono a nulla, sbuffò irosamente. Ma non era così in collera come faceva credere la sua voce, perché trasse il fazzoletto dalla tasca e lo infilò tra la guancia di Robertson Hay e il tagliaerba. Almeno avrà la faccia pulita quando si sveglierà. Questo lo sorprenderà, disse brusca. Michael Ma Jane e Michael notarono con quanta cura ella avesse evitato di svegliare Robertson Hay e quanto erano dolci i suoi occhi quando se ne fu andata. Le trottarono appresso, ammiccandosi in un l'altro eloquentemente. Ognuno dei due sapeva che l'altro aveva capito. Mary Poppins spinse la carrozzina sui gradini fin nell'ingresso. La porta d'entrata si richiuse con un rapido colpetto. Fuori, in giardino, Robertson Hay continuava a dormire. Quella sera, quando Jane e Michael andarono ad augurargli la buonanotte, il signor Banks era su tutte le furie, stava vestendosi per andare fuori a pranzo e non riusciva a trovare il bottone d'oro dello sparato. Per tutti i fulmini, eccolo qui! Gridò all'improvviso. In una scatola di lucido da scarpe! Guarda un po', sulla mia toeletta! Deve essere stato Robertson Ney a mettercelo. Licenzierò quel bel tipo uno di questi giorni. Non è altro che un sudicio briccone. E non riuscì a comprendere perché Jane e Michael, alle sue proteste, scoppiarono in una risata così allegra.